Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La verità l'avevo detta prima e la dico anche adesso. Non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione dell'Alitalia. Tuttavia, non c'è dubbio che il governo si sente impegnato dalla parte dei cittadini, dalla parte degli utenti, dei contribuenti, e certamente anche impegnato a non disperdere le risorse di gli asset, le risorse di lavoro di questa compagnia. Così ha parlato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il Presidente del Consiglio Gentiloni oggi su questa vertenza difficilissima di una compagnia aerea come Alitalia, che insomma non c'è verso che decolli da anni. Ha detto: sono preoccupato, sono deluso di come è andato il referendum e vedremo un po' che cosa succederà. Si va verso il commissariamento, moltissime le notizie, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Sono di nuovo con voi dopo essere dopo questo incidente di percorso, nel senso letterale proprio del termine, ancora un po' acciaccata. Insomma, è tempo di riprendere. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno sostituito in questo periodo in cui ero fuori uso. Adesso cerco di tornare al timone, insomma, di reggere come posso. Molte importanti, dicevo, anche i fatti di oggi. Seguiremo, per esempio, tra poco, attraverso la diretta Sky, il primo confronto, e unico confronto in questo caso, dei tre sfidanti alla segreteria del PD, perché sapete che il 30 aprile, domenica, ci sono le primarie e quindi ci sarà questo confronto televisivo tra Renzi, Orlando ed Emiliano. Tra l'altro Renzi ha detto una cosa che ha fatto molto arrabbiare i suoi contendenti. Ha detto non solo ci sarà la scelta del segretario domenica con le primarie, ma anche del candidato premier, cosa che loro non avevano previsto, e dicono qui si stanno cambiando le regole. Ce ne occuperemo, così come è importante sottolineare che oggi il presidente Mattarella, incontrando il presidente del Senato Grasso e la presidente della Camera Boldrini, ha sollecitato il Parlamento tramite loro per insomma arrivare finalmente a questa benedetta legge elettorale. E dopo poco è arrivata la notizia che sarà, che approderà in aula la discussione per la legge elettorale il prossimo 29 maggio. Insomma, molte le cose, vi dicevo, i titoli ve li ricordo tra poco e cominceremo poi ad approfondire dopo le 21:15 i fatti principali. Per i vostri interventi, per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete, c'è sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. Cominciamo prima di tutto allora con il riassunto della giornata. Legge elettorale approdata alla Camera il 29, approderà alla Camera il 29 maggio dopo la sollecitazione del presidente Mattarella, che oggi ha incontrato Grasso e Boldrini. Partito Democratico a 4 giorni dalle primarie, stasera su Sky il confronto TV tra Renzi, Emiliano e Orlando, e l'ex presidente del Consiglio sottolinea: domenica si sceglie il segretario e anche il candidato premier, ma gli avversari non sono d'accordo. Libertà di stampa, l'Italia recupera posizioni, ma Grillo attacca Reporter Sans Frontier che critica le liste dei giornalisti scomodi. Alitalia si avvicina al rischio commissariamento, il governo esclude la nazionalizzazione. Corea del Nord, Pechino chiede a Stati Uniti e Corea del Sud di fermare le manovre di Pyongyang sul nucleare e avverte che il pericolo di una guerra è grande. Stati Uniti, Trump rilancia sulle tasse ma slitta la costruzione del muro col Messico. Presidenziali francesi, Macron fischiato dagli operai, sfida alla Whirlpool con Le Pen. Stamina, nuova inchiesta, arrestato Davide Vannoni, i pazienti all'estero pagavano 30.000 euro per ogni ciclo di cure, il guru indagato a Torino per associazione per delinquere. Il rapporto Eurostat, l'Italia è penultima nell'Unione Europea per numero di laureati. Cinema, è morto Jonathan Demme, premio Oscar per Il silenzio degli innocenti. Partiamo quindi dalla legge elettorale, per la quale sono arrivate oggi, vi dicevo, le sollecitazioni del Presidente della Repubblica Mattarella al Parlamento, espresse dal Capo dello Stato incontrando oggi il Presidente del Senato Grasso e la Presidente della Camera Boldrini. Mattarella ha detto che le due priorità appunto sono la legge elettorale e anche l'elezione del giudice della Corte Costituzionale mancante, e a stretto giro è arrivata la notizia che i capigruppo di Montecitorio hanno deciso che la discussione della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 29 maggio. A proposito della politica italiana, questa sera, tra poco, con effetto notte, vi dicevo, lo seguiremo, ci sarà a 4 giorni dalle primarie PD, che sono il 30 aprile, il confronto TV tra gli aspiranti segretari del Partito Democratico, Renzi, Orlando ed Emiliano. Renzi ha sottolineato che domenica si sceglie non solo il segretario del Partito Democratico, ma anche il candidato premier. Gli avversari però non si sono mostrati d'accordo. E comunque, certamente, insomma, tra i temi che affronterà questa sera nel confronto TV ci sarà anche Alitalia e si apprende che si svolgerà il 2 maggio l'assemblea della compagnia. Il rischio di spezzatino è concreto mentre il governo ribadisce il no alla nazionalizzazione. Commissariamento. E questo è il futuro che si profila per Alitalia dopo il secco no dei lavoratori sancito dal referendum su piano industriale e ricapitalizzazione da 2 miliardi delineati da azienda e sindacati. Il governo esclude la nazionalizzazione della compagnia, ma, dice il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a Radio 24, garantirà un prestito ponte per gestire Alitalia nei prossimi 6 mesi e fissa le tappe. Il nuovo commissario deve intanto assicurare la continuità dell'azienda, poi trovare un acquirente per Alitalia che sappia gestirla. L'unica cosa sarà avere un prestito ponte da parte dello Stato, una cosa che sta intorno ai 300-400 milioni per assicurare i 6 mesi di gestione. Alitalia intanto ha convocato per domani l'assemblea dei soci che dovrebbe dare il via al commissariamento dell'azienda, riunione che potrebbe però slittare in seconda convocazione al 2 maggio. Se ci sarà l'ok dei soci, la compagnia chiederà così al Ministero dello Sviluppo Economico di accedere all'amministrazione straordinaria speciale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Delusione per l'esito del referendum, preoccupazione per il futuro della compagnia. Il dossier Alitalia resta in primo piano nelle priorità di Palazzo Chigi. La posizione del governo tuttavia non cambia, non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione, ribadisce il presidente del Consiglio Gentiloni. Chi governa ha come compito quello di dedicarsi alla soluzione dei problemi, ma anche di dire la verità. E io su questa questione la verità l'avevo detta prima. Dopo la bocciatura del referendum su Alitalia ora sono a rischio, compreso l'indotto, circa 20.000 lavoratori, aggiunge il ministro del lavoro Poletti. Dal mondo politico diversi commenti. Orfini, PD, chiede di verificare ogni possibile alternativa al fallimento. Con un buon piano di rilancio non serve l'intervento dello Stato, dice Di Maio, 5 Stelle. Da Forza Italia, Brunetta aggiunge. Siamo molto preoccupati, per il ruolo soprattutto della compagnia di bandiera, per quanto riguarda la nostra economia, per quanto riguarda il nostro turismo. Sulla vicenda Alitalia interviene anche la CEI con il segretario generale Monsignor Galantino, che richiama le responsabilità di chi rifiutò l'alleanza con Air France e KLM. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E stasera, tra l'altro, è iniziato un nuovo vertice su Alitalia a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Gentiloni, i ministri competenti Graziano Del Rio, Giuliano Poletti e Carlo Calenda, e presente anche il ministro dell'economia Padoan. Parliamo adesso di libertà di stampa. L'Italia fa un passo in avanti nella classifica annuale di Reporters Sans Frontières, l'organizzazione per la libertà di informazione. Italia che guadagna 25 posizioni nella classifica mondiale. Restano però per l'organizzazione dei problemi, tra i quali anche Beppe Grillo. Il problema della libertà di stampa in Italia è tutta colpa mia. Reporters Sans Frontières mi ha aperto gli occhi, replica con un tweet sarcastico Beppe Grillo al rapporto dell'organizzazione parigina che lo ha messo sul banco degli imputati. Il livello allarmante di violenza contro i giornalisti in Italia si legge infatti nel documento e anche a causa di politici che screditano i media come arma preferita e che non esitano a comunicare pubblicamente l'identità dei giornalisti sgraditi. Nel rapporto si parla anche di giornalisti che continuano a subire intimidazioni verbali o fisiche, provocazioni, minacce, pressioni di gruppi mafiosi e organizzazioni criminali, ma anche di una libertà di stampa in Italia comunque migliorata. Basti pensare che il bel paese è balzato nella classifica dal 77esimo al 52esimo posto. In generale la libertà di stampa nel mondo, secondo l'organizzazione, non è mai stata così minacciata. La situazione viene definita difficile o molto grave in 72 paesi, i peggiori Burundi, Egitto e Bahrain, ultima assoluta come sempre la Corea del Nord, in testa invece i paesi scandinavi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto all'età di 73 anni Giorgio Guazzaloca, che fu sindaco di Bologna dal 1999 al 2004, dopo una storica vittoria, perché fu infatti il primo e unico nel dopoguerra a strappare al centro-sinistra la città simbolo del centro-sinistra, appunto Bologna. E ora trasferiamoci all'estero. La Cina sollecita Stati Uniti e Corea del Sud a fermare le loro manovre militari a Pyongyang, di Pyongyang, e bloccare i programmi nucleari per raffreddare le tensioni. Il ministro degli esteri cinese dice che sicurezza e stabilità sono molto fragili adesso e il pericolo di scoppio di un nuovo conflitto in ogni momento è grande, e in una conferenza stampa a Berlino con il ministro degli esteri tedesco, il ministro cinese aggiunge che non possiamo rischiare neanche l'1% delle possibilità di una guerra che avrebbe conseguenze inimmaginabili. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, il segretario al Tesoro americano annuncia il più grande taglio delle tasse, la più ampia riforma fiscale della storia degli Stati Uniti da parte del presidente Trump, confermando un'aliquota del 15% per le aziende. La legge di spesa non conterrà però i fondi per il muro al Messico. Intanto il Washington Post attacca Ivanka, la figlia prediletta di Trump, e scrive che una fabbrica in Cina che produce capi griffati per il gruppo a cui fa capo il suo brand paga alle operaie $1 l'ora. In Iraq, adesso, dove le forze irachene hanno liberato dal controllo dell'ISIS la città di Hatra, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Mazze, picconi e perfino il tiro a segno con i Kalashnikov. I jihadisti dell'ISIS 2 anni fa sfogarono così la loro furia iconoclasta contro le statue e gli ornamenti dell'antica città di Hatra, in Iraq. Lo sfregio alla storia dell'umanità era stato esibito al mondo con un video intitolato La distruzione degli idoli. Le rappresentazioni umane delle divinità, proibite dall'Islam, venivano adorate al posto di Dio e per questo dovevano essere cancellate. Adesso le milizie fedeli al governo iracheno hanno annunciato di aver liberato la città dall'ISIS, riprendendone il controllo. Hatra è un pezzo importante della storia irachena, nonché patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La città guadagnò fama per la sua fusione di pantheon greci, sumeri, assiri, siriani ed arabi, noti come Casa di Dio. L'ISIS aveva pubblicato poi altri video che mostravano i bulldozer in azione contro gli antichi templi e le statue. Il sito è stato saccheggiato e i reperti più piccoli sono stati trafugati. Bisognerà capire quanto di questo patrimonio è rimasto intatto e cosa invece è andato irrimediabilmente perduto, disintegrato dalla radicalismo dello Stato Islamico. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Venezuela, con una nuova giornata di tensione dove l'opposizione prosegue la sua protesta contro il presidente Maduro. Migliaia di persone sono attese alla marcia in difesa del popolo a Caracas, organizzata per chiedere la destituzione del Tribunale Supremo e la convocazione di elezioni immediate. Ieri altre 3 persone sono state uccise nel paese, numerose sono rimaste ferite, alcune di loro versano in gravi condizioni. A questo punto il bilancio della protesta è salito a 24 morti in 3 settimane. Ci occuperemo anche di presidenziali francesi, che sono senza esclusione di colpi tra Macron e Le Pen, e Marine Le Pen, che ha atteso al centrista Macron oggi un agguato mediatico, diciamo così, di cui parleremo dopo. Torniamo in Italia, ma anche all'estero, con Stamina, perché Davide Vannoni, considerato il padre del contestato metodo Stamina per la cura di pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative, è stato nuovamente arrestato. I carabinieri si sono presentati questa mattina nella sua casa torinese con un'ordinanza di custodia cautelare. L'accusa è di aver perseguito la somministrazione del metodo Stamina all'estero, in particolare in Georgia. Quando patteggiò la condanna a 1 anno e 10 mesi nel 2015, Vannoni si impegnò a non proseguire le sue attività, bocciate dalla comunità scientifica. I pazienti all'estero pagavano 30.000 euro per ogni ciclo di cure. E poi il rapporto di Eurostat. Nel 2016 la percentuale di laureati tra le persone tra i 30 e i 34 anni è cresciuta in tutti i paesi membri dell'Unione rispetto al 2002, ma l'Italia è tra i paesi con la percentuale di laureati più bassa. Una quota inferiore si registra solo in Romania, pensate. E poi per il cinema un lutto, la morte di Jonathan Demme, il regista si è spento a 73 anni, era malato da tempo. Jonathan Demme, classe 1944, si era avvicinato al mondo del cinema all'inizio degli anni 70 attraverso la casa di produzione di Roger Corman. Prima gli exploitation movies, i B-movies dell'epoca, poi le commedie come Qualcosa di travolgente e Una vedova allegra ma non troppo, successi negli anni 80. Ma è con il thriller Il silenzio degli innocenti che Demme fa il salto di qualità, un film che gli vale il premio Oscar per la regia nel 91, un'esperienza che a Radio 24 ha raccontato così. Well, It is. It makes the town you live in. È qualcosa che ti cambia la vita. Nella città in cui vivi sono tutti orgogliosi e ti dà molta fiducia in te stesso, diceva. L'anno successivo è quello dello straordinario successo di Philadelphia, premio Oscar a Tom Hanks e Bruce Springsteen. La sua carriera poi è stata fatta anche di documentari musicali e proprio il Boss era un suo grande sogno. I have been trying to persuade Bruce Springsteen. Ho cercato di convincerlo a dirigere un documentario su Asbury Park, ci raccontava. Glielo produco io, sarebbe un grande regista. It's obvious, he'd be a great filmmaker. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere questo riassunto della giornata, anche il calcio, parliamo non di quello giocato e purtroppo ancora una volta di uno scandalo che riguarda la Premier inglese. Prima le rivelazioni sugli oltre 800 casi di abusi sessuali perpetrati ai danni di giovani calciatori tra gli anni 70 e 90. Ora sulla Premier inglese si abbatte un altro scandalo. Il reato contestato è quello di frode fiscale e assicurativa per circa 6 milioni di euro. Diversi gli arresti, perquisite le sedi di West Ham, Chelsea e del Newcastle allenato da Rafa Benitez, risalito proprio in Premier appena due giorni fa, dove è stato fermato l'amministratore delegato Lee Charnley, che dei bianconeri è stato anche segretario e direttore. Ben 180 gli agenti in azione nel Regno Unito e in Francia, dove il club sotto inchiesta è il Marsiglia, negli ultimi anni coinvolto in diverse operazioni di mercato proprio con West Ham e Newcastle. Sequestrati documenti aziendali e finanziari, computer e telefoni cellulari. Ma l'inchiesta sembra appena all'inizio. Si ipotizzano almeno 43 giocatori e 12 club coinvolti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E direi che a questo punto possiamo quindi chiudere questa prima parte della giornata con i fatti principali raccontati. Dopo cominceremo, come sempre, dopo la viabilità, tra pochi istanti, ad approfondire alcuni temi in particolare e ci collegheremo direttamente con il confronto TV su Sky. Già sta parlando Renzi, ci sono i tre sfidanti alla segreteria del PD. Sapete che domenica si votano le primarie. Vogliamo sentire proprio un accenno di Renzi, cosa sta dicendo? Incognita. Credo che siamo l'unico partito a farle le primarie. Tutto ciò che ha la cifra 1 milione davanti va bene. Grazie, aveva ancora qualche altro secondo, ma erano due cifre, insomma siamo riusciti a concentrarli lì. Posso recuperare dopo? No. No, quello non glielo abboniamo. Michele Emiliano, allora, numero sotto al quale si può parlare di flop e poi che risultato personale si aspetta di poter ottenere dal voto di domenica? Abbiamo deciso di fare un congresso con rito abbreviato, in fretta durante le feste di Pasqua e naturalmente non siamo stati in grado di far sapere a tutti gli italiani che queste primarie possono cambiare la storia del nostro paese, la storia del PD. Possiamo provarci tramite questo confronto. Ovviamente per me, che mi sono candidato soprattutto per salvare il Partito Democratico ed evitare che si facesse un confronto solo tra loro due, va bene qualunque cosa. Sì, grazie. Renzi, Emiliano, adesso Orlando, diamo spazio prima della pausa. Anche io avrei voluto un altro congresso, un congresso preceduto da una discussione sul merito delle questioni che rispondesse alle domande che erano arrivate dal referendum. Non è stato possibile, seguiamo le regole che ci siamo dati e abbiamo scelto insieme. Io credo che più gente verrà e più sarà forte il Partito Democratico. Sto all'asticella che fissò Matteo Renzi nel 2013, le altre primarie, 2 milioni di persone. Per me naturalmente voglio il 50%. Insomma, è stato l'appello contro l'astensionismo per domenica, diciamo così. Abbiamo un anticipo, un antipasto di questo confronto. Ci ritorniamo tra pochino. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Eccoci subito insieme, Roberta Giordano, allora con voi dopo questo periodo un po' fuori uso da parte mia. Ringrazio ancora i colleghi e le colleghe che mi hanno sostituita, ringrazio tutti, bentornata, che vedo da Clotilde, a Lidia, Andrea da Udine, Francesca da Verona, insomma molti tra pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, vi ringrazio quindi per interazioni sui temi di questa sera, la pagina Facebook del programma oppure appunto il 349-238-6666. Cominceremo, anzi in parte abbiamo già cominciato a sentire quindi questo primo confronto TV tra Matteo Renzi e Andrea Orlando, Michele Emiliano, in vista tra 4 giorni, domenica 30 aprile, delle primarie del Partito Democratico. Ma prima vi ricordo velocemente i titoli principali. Monito del presidente Mattarella sulla legge elettorale e subito arriva la decisione che sarà in aula alla Camera a fine maggio, il 29. Intanto confronto TV per i candidati Dem. Renzi vuole la premiership e dice che domenica non solo si vota il segretario ma anche il candidato premier. E poi su Alitalia il governo compatto dice non sarà nazionalizzata, vertice tra Gentiloni e i ministri in queste ore. Migliora la libertà di stampa in Italia ma scoppia il caso Grillo perché Reporter sans frontières critica le liste dei giornalisti scomodi. Lui invece ironizza. E poi il metodo Stamina di nuovo riappare all'estero, voleva trasferire il suo metodo Davide Vannoni a Santo Domingo dopo essere stato condannato in Italia, è stato fermato e arrestato e accusato di associazione per delinquere. E poi per quanto riguarda le presidenziali francesi, Macron fischiato dagli operai, sfida alla Whirlpool con Le Pen, ne parleremo naturalmente anche questa sera, e Trump negli Stati Uniti che rilancia sulle tasse, mentre Pechino evoca il rischio guerra se non interverranno Stati Uniti e Corea del Sud a calmare le ambizioni, diciamo così, nucleari della Corea del Nord. E poi il rapporto dell'Istat, fra 50 anni ci saranno meno abitanti in Italia. Quindi vi dicevo, ripartiamo subito con la politica italiana, con il PD. Stanno parlando in questo momento, in questo primo e unico confronto TV, i tre aspiranti alla segreteria, Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. Ci sono le regole un po' all'americana, no? Come sempre da un po' su Sky con questi confronti TV, quindi il conto alla rovescia di un minuto e mezzo, hanno a disposizione per parlare un minuto e mezzo, c'è la possibilità di replicare tra loro con repliche da 30 secondi ciascuna e poi delle possibili domande incrociate fra i candidati e l'appello finale. Un appello iniziale già l'hanno fatto per evitare l'astensionismo già nei giorni scorsi, Renzi. Ecco, adesso sta parlando di Alitalia, forse visto che è un tema caldissimo di oggi, sentiamo... Il segnale della crisi del sindacato tradizionale dopo questa vicenda, dopo questa ennesima vicenda? Dagli e dagli a disintermediare, Orlando, Andrea Orlando, a dire che il sindacato non serve a niente, poi è difficile anche gestire questi passaggi. In tutti i casi io credo che noi non possiamo lasciare soli i lavoratori di Alitalia. La liquidazione non è la strada che possiamo seguire, dobbiamo fare in modo tale che la politica faccia tutto il possibile, tutto il possibile, tutto quello consentito, perché dietro ogni posto di lavoro, e questo è un ragionamento che vale per Alitalia come per le banche, come per la Fiat, dietro ogni posto di lavoro c'è una famiglia, c'è la dignità di una persona, grazie, c'è la libertà di una persona. Questo è Andrea Orlando, ministro della giustizia, del PD, del governo. No soldi pubblici, ma una proposta che il PD dovrà avanzare al governo nei primi 15 giorni della nuova segreteria. Renzi su Alitalia. Quindi, se saremo eletti, entro il 15 maggio dovremo presentare al governo una proposta, perché su Alitalia è stata la saga, il festival degli errori, assurdo che un paese come il nostro, pieno di turismo e ricco di possibilità dal punto di vista aereo, butti via un'occasione del genere. Michele Emiliano, su questo, su Alitalia e soprattutto su questa, se c'è un nuovo segnale di crisi di questo sistema del sindacato tradizionale. Nessuno nei governi ultimamente in carica ha sorvegliato quello che accadeva in Alitalia, siamo stati come al solito presi in contropiede da questo disastro, l'ennesimo, e adesso qualcuno pretenderebbe di far fallire la compagnia, di mandare a casa 13.000 persone e di fare un danno d'immagine e concreto all'Italia molto, molto severo. Bisogna evitarlo ad ogni costo, si sono trovati i soldi per salvare le banche, si troverà anche la maniera di salvare all'Italia. Veniamo, cioè avremo una ampia pagina su questi temi che stanno davvero a cuore agli elettori e elettori non solo del Partito Democratico. Quindi diciamo, questo è il tema caldissimo di Alitalia, hanno esordito con questo. C'è la nostra Elisabetta Fiorito in diretta da Roma. Cara Elisabetta, ciao. Ciao Roberta. Quindi si ripete, Renzi l'aveva già fatto, no? Confronto TV con Cuperlo e con Civati, no? Sempre per la segreteria del PD. Stasera si ripete con altri due differenti avversari, abbiamo sentito appunto quello che pensano di Alitalia, il loro appello contro l'astensionismo. C'è una cosa che ha fatto molto arrabbiare Orlando Emiliano Betta, che Renzi ha detto che domenica non si sceglierà soltanto il segretario del Partito Democratico, ma anche tra loro il candidato alla presidenza del Consiglio. Sì, ci sono due punti distanti, in cui Renzi è completamente distante dagli altri due candidati. Il primo è quello che dicevi tu, è il fatto che lui ha sempre sostenuto e continua a sostenere che il segretario del PD, qualora dovesse vincere le elezioni, dovrebbe diventare anche il presidente del Consiglio. il famoso doppio incarico che lui ebbe quando era presidente del Consiglio, perché era anche segretario del partito. E questo era sempre stato una battaglia della sinistra, che invece voleva due ruoli distinti. Lui non ha cambiato idea, lui continua a dire: se io vinco divento segretario, vinco le elezioni, divento anche presidente del Consiglio come negli altri paesi europei. Mentre Emiliano e Orlando hanno un'idea del PD meno centralista ma più partecipata, e quindi magari vorrebbero due figure diverse. L'altra è la lotta dei numeri dell'affluenza alle famose urne delle primarie del PD, anche se insomma non si può dire urne, ma ai gazebo, no? Perché? Perché Renzi stesso ha scelto questa data un po' infausta, perché il 30 mezzo aprile ponte, è no? In mezzo a un ponte, quindi chi parte non vota, nel senso che un conto è elezioni politiche, un conto è una partecipazione spontanea e popolare. Senti Betta, quindi sentiamo un attimo, sta finendo Orlando di parlare, così facciamo un'altra tornata in cui facciamo parlare tutti e tre. Sentiamo una domanda del giornalista che di Sky, che ricordo è Fabio Vitale. Insomma, per la cronaca, che avete possibilità di replicare, non lo state facendo, avete ancora tempo per poterlo fare qualora lo vogliate. Allora, prendiamo una busta paga di un dipendente, di un operaio medio. Allora, per arrivare a 1.400 euro netti nella tasca di un lavoratore, l'azienda ne spende circa 2.400. Cuneo fiscale. Questa differenza va ridotta e come? Emiliano. È semplicissimo. Noi vorremmo innanzitutto varare una web tax. Vorremmo che chi vende sul web sia equiparato dal punto di vista del prelievo fiscale rispetto ai piccoli commercianti delle nostre città che tengono vivi i nostri quartieri. E con queste entrate possiamo finanziare a regime uno sgravio fiscale permanente che consenta più soldi in busta paga e meno costo del lavoro per gli imprenditori. Tra l'altro di web tax ne parleremo più avanti. Orlando, la sua posizione su questo, soprattutto questa differenza, può essere ridotta e come la ridurrebbe il suo PD? Va ridotta, ma dobbiamo andare a vedere che non avremo risorse per tutti, dobbiamo partire da quelli che stanno peggio, da quelli che hanno i salari più bassi, perché non potremo garantire di poter intervenire per tutti. Va ridotta sicuramente con una tassazione che abbia anche una dimensione sovranazionale. Ci sono grandi capitali che sfuggono alla statualità, ci sono capitali che mettono la sede da una parte e lo stabilimento dall'altro e pagano le tasse dove vogliono, e questi vanno presi. Per questo ci vuole l'unione fiscale a livello europeo. E poi noi dobbiamo lavorare per una razionalizzazione della spesa pubblica. Io credo che si possa fare meglio. La spesa pubblica ancora può essere rivista, non diminuita, ma può essere resa più produttiva. Terza questione: l'1% degli italiani detiene il 25% della ricchezza del paese. Se anche gli chiediamo di fare qualche sacrificio, non credo che strapperanno troppe bottiglie di champagne in meno. Renzi, su questo, come si può riuscire a far mettere 1.400 euro netti in una tasca di un dipendente e allo stesso tempo, 2004, ridurre questa differenza, questa discrepanza di cifre che poi alla fine è il tema che tocchiamo da anni tutti. Gli unici che hanno fatto qualcosa in questo senso sono stati le persone che hanno scelto, non soltanto sottoscritto o Andrea che faceva parte del Consiglio dei Ministri, ma tutti quelli che hanno scelto di fare innanzitutto gli 80 euro. Sono 10 miliardi, perché poi altrimenti si fa come quelli che fanno il lavoro di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, e non si rendono conto dei numeri. I numeri sono argomenti testardi, diceva quello. Allora parliamoci chiaro. 10 miliardi di euro dati a 10 milioni di italiani da 3 anni a questa parte sono la più grande opera di redistribuzione mai fatta in Italia negli ultimi 30 anni. Io invito i miei colleghi e tutti voi a dirmi un altro caso di redistribuzione del reddito come questo. Non c'è. Dopodiché non basta, perché tu hai ancora un gap troppo alto. Si può intervenire a condizioni: uno, di fare un grande accordo in Europa diverso sulla fiscalità, ma anche sulle regole del deficit pubblico. Allora, una replica? Di replica, sì. C'è Emiliano che vuole replicare. Non è cambiato per nulla, è sempre lo stesso. Lui pensa di risolvere i problemi con i bonus e non con i diritti assicurati a tutte le persone. È una fissazione che ci siamo abbiamo provato a togliergli dalla testa, ma Matteo è sempre lui, in grande forma nella proposizione dei suoi argomenti, ma testardissimo nell'insistere negli errori. Io sono convinto che si può fare diversamente e si può fare soprattutto rispettando le persone. E abbiamo fatto una proposta chiara. Grazie. Da questo punto scusa, c'è anche la controreplica di Renzi che alza il dito. Quindi. 30 secondi, Renzi. Mi spiace dover replicare, ma non capisco cosa c'entra quanto sia cambiato io. Non credo che a qualcuno interessi quanto sono cambiato io. Parlare di mancanza di diritti per uno che guadagna 1.080 euro e che va a 1.160 vuol dire non conoscere la busta paga di un metalmeccanico di una persona che non ce la fa, caro Michele Emiliano. 80 euro in più da 3 anni al mese per persone che non arrivano alla fine del mese non sono un bonus, sono il tentativo di dar loro una mano e arrivare alla fine del mese in modo serio. Abbiate rispetto per queste persone. Insomma, diciamo, Betta, che anche questa storia di bonus da, appunto dagli 80 euro al... quelli per i giovani eccetera sono stati motivo per Renzi di orgoglio del suo governo e invece anche un elemento di grande critica, no? Beh, insomma, intanto abbiamo visto delle scintille, Roberta, sì, beh, no? Sì. Direi di fermarci su questa cosa, perché sugli 80 euro per esempio adesso Orlando, beh, facendo poi parte del governo prima Renzi ora Gentiloni, ha detto sì, sono stati importanti, però è stata una scelta isolata, no? Ha un atteggiamento meno spocchioso di quello che ha Emiliano. Ecco, quello che è sembrato è questo attacco di Emiliano, che alle volte è un po' gratuito nei confronti di Renzi. È chiaro che hanno delle visioni completamente opposte. Ricordiamo che Emiliano è colui che non si sapeva se rimaneva nel PD oppure no. No, ti ricordi c'era stato questo thriller e poi a un certo punto che all'ultimo momento invece sono usciti e lui è rimasto. Bersani, quindi Speranza, ecco, c'è stato questo attacco sugli 80 euro, sai, Renzi ha risposto esclusivamente sugli 80 euro, poteva anche rispondergli sì, va bene, ma come candidato alla segreteria non ti sei dimesso dalla magistratura, per dire, no? Quindi è chiaro che però Emiliano ha un'idea completamente diversa del Partito Democratico. Lui non, ha subito detto no assolutamente a un'alleanza con Silvio Berlusconi e con il centrodestra, insomma il famoso inciucio per le larghe intese all'indomani delle elezioni qualora nessun partito dovesse raggiungere la famosa soglia del 40%. E quello di cui si vocifera, no? Questo asse contro i 5 Stelle tra Forza Italia e Partito Democratico, e lui ha ribadito che assolutamente no. Quindi sono su due posizioni diverse. Renzi ha parlato di una legge elettorale maggioritaria invece, perché forse vorrebbe andare da solo alle elezioni e magari cercare col PD di raggiungere il 40% se c'è il premio di lista, quindi costringere anche coloro che magari stanno più verso Pisapia e vorrebbero più un governo di coalizione a votare il Partito Democratico. Quindi ci sono proprio due mentalità diverse. Emiliano guarda al centro, alla sinistra, anche Orlando. Renzi invece vuole un PD staccato da tutti e magari forse fare alleanze dopo. E tra l'altro c'è una ascoltatore che dice: ma cos'è Radio PD? No, semplicemente, Ulisse, cioè, ci sono il confronto TV a 4 giorni dalle primarie del Partito Democratico, mi sembra una cosa così irrilevante. Allora, dicevi, Betta, che dicevamo prima appunto del fatto che c'è la paura dell'astensionismo per questo ponte che c'è in mezzo del 1° maggio. Ci ricordi come si vota, chi vuole votare, chi vota, anche chi deve votare, chi può si votare? Può andare direttamente al gazebo e dare i famosi 2 euro e poi votare il candidato alla segreteria che si preferisce. E qui ci sono state anche qui, no, perché sai, nel PD tutto quanto non è mai, niente è mai lineare, no? E quindi si è pensato a un certo punto che gli altri volessero costringere bene o male anche le forze di sinistra a votare. Renzi sta facendo un appello ai suoi perché ha paura di ribaltare il risultato dei circoli. Ricordiamo che Renzi è vincente oltre il 60% nei circoli PD. Orlando al secondo posto e Emiliano insomma raggiunge a stento il 5%, no? Quindi più vanno a votare e più Renzi vuole che vadano a votare soprattutto i suoi, e oggi ci sono stati sia Orlando sia Emiliano che pensano che questo voto popolare, cioè che viene fatto da tutti, mentre quello dei circoli era fatto solo da chi era iscritto al Partito Democratico, possa poi ribaltare il risultato dei circoli. Io te lo dico da cronista parlamentare, non ho mai visto questo ribaltamento, cioè quello che era il risultato dei circoli è sempre stato confermato. Ecco. Credo che la delusione grande di queste primarie del PD sia Emiliano, mentre la sorpresa e forse il futuro rottamatore, non oggi ma magari un'altra tornata, sia Orlando. Dici. Ma allora fermiamoci per il momento qui, ci prendiamo questa pausa mentre gli ascoltatori continuano a scrivere messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Direi di risentire, a meno che qua non ci sia un argomento importantissimo, sentiamo un attimo. Una priorità assoluta. In Italia ci sono 5-4, a seconda delle stime, persone che sono sotto la milioni di sta parlando di povertà, 100.000 bambini che sono sotto la soglia brevemente, di allora. Nutrizione minima. È una vergogna per il nostro paese. Io credo che noi possiamo chiedere di più a chi ha di più, e credo che per questo si possa vedere quale fascia coinvolgerebbe? Quella fascia dell'1% che ha ha una ricchezza uguale all'insieme del debito pubblico italiano, 2.300 miliardi di euro. Quindi credo che quelli qualcosa possono dare in più di quello che stanno dando oggi. Grazie Orlando. Allora, da sempre la politica e i politici hanno, e continuano. Niente, stanno cambiando argomento, direi di prenderci la pausa. Elisabetta Fiorito, anche con voi, ascoltatrici e ascoltatori, ci stiamo proprio tra pochissimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Rieccomi qui al microfono dopo un incidente di percorso nel senso letterale. Stiamo seguendo soprattutto la diretta Sky del confronto TV tra i tre aspiranti segretari del Partito Democratico, quindi Matteo Renzi, Andrea Orlando, che è ministro della giustizia del PD, e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Con noi c'è sempre in collegamento la nostra Elisabetta Fiorito. Vi ricordo velocissimamente, se avete acceso da poco, quali sono i fatti principali. Legge elettorale approderà alla Camera il 29 maggio dopo la sollecitazione oggi del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato Grasso e Boldrini. Partito Democratico, abbiamo detto che a 4 giorni dalle primarie c'è questo confronto TV. Libertà di stampa, l'Italia recupera posizioni ma Grillo attacca, Reporter Sans Frontières che critica le liste dei giornalisti scomodi. All'Italia si avvicina il rischio commissariamento, il governo esclude la nazionalizzazione. Per la Corea del Nord, Pechino chiede a Stati Uniti e Corea del Sud di fermare le manovre di Pyongyang sul nucleare, avverte che il pericolo di una guerra è grande. E poi Stamina, nuova inchiesta, arrestato Davide Vannoni, i pazienti all'estero pagavano 30.000 euro per ogni ciclo di cure, il guru indagato a Torino per associazione per delinquere. Riprendiamo allora, sentiamo adesso qual è la domanda e l'argomento. Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che tra l'altro adesso sta parlando di Andrea Orlando, di annoverare tra i miei sostenitori, a fare delle assunzioni con la premessa che chi va a fare quel lavoro deve garantire un servizio pubblico, che è la conseguenza di una legge dello Stato, che è il frutto di battaglie che le donne italiane hanno fatto per porre fine alla vergogna dell'aborto clandestino. Dell'aborto, di quella del San Camillo, iniziativa di assumere ginecologi che non siano obiettori di coscienza. Di coscienza vada garantito e che contemporaneamente vada garantita l'applicazione della legge dello Stato, in questo caso la legge 194. Quello che secondo me va fatto in più rispetto a quello che non stiamo facendo è un grande investimento nell'educazione sessuale nelle scuole, è un grande investimento nella cultura e nella consapevolezza delle giovani generazioni, perché se c'è un principio che la 194 esprime che non è stato applicato è che l'aborto deve essere il più possibile ridotto, il più possibile raro, e purtroppo questo non è, anche per mancanza della società. Emiliano, qual è la sua posizione su questo? L'aborto è ovviamente un dramma, soprattutto per le donne, ed è un dramma che evidentemente si fa fatica a comprendere, soprattutto nelle aule parlamentari. Ho l'impressione che si discuta spesso di queste questioni solo per una questione di marketing politico, e soffro moltissimo quando non si riesce invece a condividere una scelta, quella della legge attualmente in vigore, faticosa, drammatica, che però ha messo in equilibrio il sistema, fermo restando che si può fare meglio nell'educazione sessuale delle ragazze. Elisabetta Fiorito, quindi interessante che ci fosse anche una domanda, diciamo, non così strettamente, anche se politica è tutto alla fine, no? Strettamente politica su, diciamo, sì, non punto di vista su argomenti come questi. Mentre c'era la pausa c'è stata anche quella sul testamento biologico e qui c'è stata anche una differenza perché sia Emiliano che Orlando sono laici, e mentre Matteo Renzi ha ribadito di essere cattolico, ma ha anche detto di essere d'accordo con la legge sul testamento biologico che ha avuto un primo passaggio alla Camera, e poi ha anche detto fondamentalmente che è stato fatto durante anche il suo governo un grandissimo passo per i diritti civili, e ha ricordato insomma le unioni civili. Molto divertente è stato il fatto che sia Orlando sia Emiliano hanno confessato, perché prima era stato dato un passaggio della serie TV di Sorrentino, quindi con Jude Law, no? E quindi questo Papa molto conservatore. Sì. Invece sia Emiliano sia Orlando hanno confessato che Papa Francesco li ha chiamati una volta, però per dire a Orlando di occuparsi di detenuti e a Emiliano di occuparsi della salute dei bambini di Taranto, insomma molto diverso dal Papa conservative che c'era nella serie TV di Sorrentino, ecco. Però era molto divertente questo fatto che il Papa poi ogni tanto telefona ai politici per bacchettarli, ma su temi molto umanitari, quindi ci ha dato un aspetto di Francesco che magari di Papa Francesco che noi non conoscevamo, ecco. Betta, tra l'altro prima citavamo appunto la legge elettorale, si parlava del fatto che è un interesse prioritario per il PD e non solo, oggi sappiamo che Mattarella aveva sollecitato tramite Grasso e Boldrini il Parlamento a sbrigarsi, no, su questa cosa che è lì sospesa da tanto, e è arrivata la notizia che il 29 maggio comincerà la discussione in aula alla Camera. Sì, ecco, appunto abbiamo detto... come ti dicevo, la parte più importante di quello che ha detto Matteo Renzi è quello: voglio un sistema maggioritario. Vogliamo sentire la domanda? Vogliamo sentire la domanda adesso del... Si è registrato circa il 30% di sbarchi in più rispetto agli stranieri irregolari in Italia. Anche l'attuale sistema di salvataggio in mare, il ruolo poco trasparente di alcune ONG oggetto di un'inchiesta della Procura di Catania, secondo lei il paese può reggere con questi numeri? A proposito di numeri, pensate che in Italia ci sono 5 milioni di stranieri, più o meno quanto gli abitanti della Sicilia, e le chiedo se sono troppi. Emiliano, a lei. Innanzitutto interi settori economici riescono a sopravvivere in Italia grazie ai lavoratori migranti. In Puglia l'agricoltura non avrebbe capacità di sostentamento senza di loro, e dunque bisogna attuare nei loro confronti una politica che ne gestisca il flusso. Significa che non possono arrivare tutti insieme e nelle condizioni in cui arrivano. E serve evidentemente un meccanismo legale di entrata di queste persone che permetta di verificare se si tratta di soggetti pericolosi. Noi dobbiamo accogliere chi vuole lavorare e rimandare a casa chi vuole fare associazioni mafiose, fare il criminale o peggio ancora fare terrorismo. È semplice, basta avere un sistema di polizia che funzioni. Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo avuto un sistema che ha favorito anche distorsioni e spreco di denaro pubblico, e non siamo riusciti a dare serenità ai cittadini che si sono sentiti minacciati da questo fenomeno, cosa che in realtà non ha fondamento. Orlando, anche lei un minuto su questo tema. La gestione dei flussi è giusta, va fatta, abbiamo credo provato a farla, va fatta con un limite nell'accoglienza, che è quello della capacità di inclusione. Noi dobbiamo fare in modo tale che chi arriva si possa inserire in un contesto e ci possa essere una possibilità di integrazione, questo per un equilibrio tra chi arriva e tra chi sta in questo paese. Dopodiché credo che dovremmo rivendicare di più, e questo lo dico davvero, penso di poterlo dire con orgoglio, che mi unisce anche agli altri che sono qui intorno a questo tavolo, il fatto che l'Italia nel corso di questi anni, senza nessun aiuto dall'Europa, ha salvato migliaia, migliaia, migliaia di vite umane. E se fossi il vicepresidente della Camera che ha strumentalizzato una vicenda che riguarda alcune ONG per dire che tutte le ONG sono trafficanti di esseri umani, mi vergognerei profondamente. Allora, per chiudere, perché andranno avanti ancora un po' Betta Fiorito, vuoi un commento finale su questo tema così sentito e che, diciamo, anche in Europa e fuori dall'Europa ha dato forza a chi sugli immigrati aveva una posizione piuttosto drastica o dura? Ma quello che sentiamo sono tutte belle parole, perché ovviamente tutti quanti siamo favorevoli a salvare le persone in mare, come ha detto Emiliano, e poi a rispedire magari indietro i trafficanti di esseri umani oppure comunque criminali. Il problema non è tanto l'accoglienza, a mio parere, è che poi molto spesso dopo l'accoglienza, dopo il primo salvataggio, non c'è una situazione in cui una politica di gestione poi, no? A gestire i flussi che sono arrivati, a rimandare indietro, a poi fare quello che ci chiede l'Europa, cioè a riconoscere da dove vengono le persone, quali sono i flussi. Ecco, molto spesso queste persone entrano e poi c'è l'anarchia. Ecco, questo nessuno lo dice. E secondo me, finché si continua a parlare delle ONG, se salvano o non salvano, prendono i soldi, si perde tempo e non si affronta il problema. Il Movimento 5 Stelle, su quella ragione Orlando, no? Le ONG sporche, no? A fare un po' quello che potrebbe essere scandalistico, non si riesce poi a vedere qual è il problema in Italia. Si devono salvare le persone in mare, certo che si devono salvare, però poi bisogna riconoscere da dove vengono, capire se sono profughi oppure no, e a quel punto espellerli, cioè riportarli nel paese d'origine. Vedremo poi come se la caveranno e chi naturalmente vincerà domenica, abbiamo ancora tempo per parlarne. Ora hanno fatto una pausa loro su Sky, facciamo una pausa anche noi. Grazie a Elisabetta Fiorito, ciao Elisabetta, che continuerà a seguire, poi parlerà anche nelle prossime nelle edizioni del GR24. Noi fra poco invece passiamo dall'Italia alla Francia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato delle notizie più importanti, il riassunto all'inizio, poi naturalmente questo confronto TV tra gli aspiranti segretari dei PD. Dice un ascoltatore, ma poi per i grillini, il centrodestra e la sinistra estrema, farete delle analoghe serate speciali? Ma naturalmente, se ci sarà il confronto TV, ci mancherebbe, l'abbiamo già fatto anche quando c'è stata l'elezione del sindaco di Roma, che poi ha vinto Virginia Raggi. Bene, direi di passare al sodo adesso. Vi ricordo velocemente quali sono le notizie principali. Roberta Giordano sempre con voi naturalmente. Le notizie principali sono che Mattarella, il Presidente della Repubblica, oggi ha sollecitato l'intervento sulla legge elettorale, cioè questa legge elettorale si faccia, e è arrivata la notizia a stretto giro che il 29 maggio approderà la discussione sulla legge elettorale alla Camera. E poi l'altra notizia è questo confronto TV che abbiamo in buona parte seguito su Sky per i candidati del Partito Democratico. Domenica ci saranno le primarie, come sapete. Poi il governo compatto su Alitalia, che dice non sarà nazionalizzata, in corso un vertice tra Gentiloni e i ministri competenti. Migliora la libertà di stampa in Italia, ma scoppia il caso Grillo, perché Reporters Sans Frontières critica le liste dei giornalisti scomodi. E poi le elezioni francesi, di cui parliamo adesso. Le presidenziali francesi, dopo il primo turno, sapete che al ballottaggio si sfideranno il 7 maggio il centrista Emmanuel Macron e la leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Due personaggi molto carismatici, ognuno a modo proprio, perché Marine Le Pen da tempo rappresenta in Europa il riferimento per tutti i partiti euroscettici, ma anche i principi della sovranità monetaria e la chiusura delle frontiere. Mentre Macron, naturalmente il 39enne, ha dalla splendida carriera professionale e politica, ha anche questa lunghissima, forte, particolare storia d'amore con la sua ex professoressa tanto più grande di lui, che è stata la sua vera pigmaliona. Quindi la battaglia è aperta, anche se le previsioni concorderebbero tutte su una vittoria netta di Macron, però diciamo che Marine Le Pen dà filo da torcere, non intende regalargli nulla. Una battaglia senza esclusione di colpi, perché oggi per esempio lei gli ha atteso quello che possiamo definire forse un agguato mediatico. Ne parliamo con Anaïs Ginori, corrispondente di Repubblica dalla Francia. Ciao Anaïs. Ciao, buonasera. Dicevo, un agguato mediatico nel senso che tutte e due erano nella città francese dove c'era ad Amiens, dove c'era la protesta degli operai della Whirlpool, perché prossimamente la sede della fabbrica sarà dislocata in Polonia, quindi c'erano gli operai che manifestavano. Doveva essere presente oggi Emmanuel Macron, ma prima che arrivasse questa mattina Così ha fatto una sorpresa, è arrivata a sorpresa Marine Le Pen, e poi quando è arrivato più tardi Emmanuel Macron lo hanno fischiato inneggiando a Marine presidente, no? Quindi lei, diciamo, non gli lascia margine su nulla, anche sulle proteste dei lavoratori, degli operai. No, chiaramente lei è stata molto abile, perché in realtà la visita di Macron a Amiens, che tra l'altro è la città natale di Emmanuel Macron, e dove voi ricordavate la storia d'amore con Brigitte, è nata proprio ad Amiens, nel liceo gesuita La Providence di Amiens, e Macron veniva nella sua città natale a visitare questi operai della fabbrica Whirlpool, che tra l'altro da tempo chiedevano che lui venisse, e lui aveva rimandato un po' questo incontro dello stabilimento. E quando ha annunciato questa visita, in realtà oggi ci doveva essere solo lui. Lei ha saputo con anticipo questo incontro e si è presentata poco prima, mentre lui stava incontrando in un altro posto i rappresentanti sindacali. Lei si è presentata nello stabilimento dove ci sono i picchetti e ha fatto ovviamente, insomma, il suo comizio in diretta, prendendo tutti di sorpresa e costringendo poi Macron, che era visibilmente prima imbarazzato, poi molto innervosito da tutta questa situazione, a inseguire lei. Praticamente si è precipitato a quel punto anche lui all'ingresso della fabbrica e è stato accolto dai fischi. I fischi non sono tanto una sorpresa, perché lui in qualche modo sapeva che andando lì, proprio perché vi dicevo era anche da tempo che lo aspettavano e lui non era andato, quindi lui comunque con coraggio aveva già messo in conto di andare in un posto dove poteva essere contestato, però anche quello fa parte della sua strategia di adesso, cioè lui deve evitare di essere il candidato dell'elite, deve mettersi in mezzo al popolo, perché è esattamente quello che Marine Le Pen gli rimprovera. Non sapeva che ci sarebbe stato questo agguato poche ore prima di Marine Le Pen, che ovviamente ha creato una grandissima confusione. Poi va detto pure che lui è stato comunque bravo, perché dopo questo agguato, dopo questi fischi, è rimasto lì quasi un'ora, si è messo lì a parlare con questi operai, non li ha probabilmente convinti, però ha mostrato una grande capacità così di ascolto, di argomentazione, ha provato a spiegare quello che voleva fare. Rimane il fatto che lei è andata lì per proporre una nazionalizzazione della fabbrica, ha proposto di mantenere tutti i quasi 300 posti di lavoro, mentre lui ha fatto un discorso più realista, quindi comunque un divario anche su quello che lui può offrire a questo tipo di elettorato ci sarà sempre, però diciamo che nella situazione è comunque ha mostrato una certa tempra e anche una capacità di, insomma, di rischiare, di mettersi in gioco. Tra l'altro vedevo adesso che alcuni stralci del comizio che ha fatto poi più tardi ad Arras, nel nord della Francia, sì. Macron, Anaïs, ha detto: Marine Le Pen non è la risposta, dice di essere la candidata del popolo, ma lei è un'ereditiera che vive in un castello, è tutto falso, non è questa la risposta, ditelo, nel senso che appunto se lei vuole avvicinare gli operai o coloro che hanno subito di più la crisi e quindi il malcontento, cavalcare il malcontento, lui dice non è la persona giusta. Comunque, insomma, ce ne sarà, diciamo, fino al 7 maggio, no? Per chiudere, Anaïs Ginori. Sì, beh, sono due candidati proprio agli antipodi, in questo la sfida affascinante, rappresentano veramente il pro Europa e il contro l'Europa, la chiusura totale, l'autarchia e l'apertura, comunque è in certo senso una reazione verso il passato, è un'idea di progresso e di speranza, quindi la sfida tra loro è aperta, e oggi in effetti in un unico luogo, spazio e tempo, si è avuto un'idea di quello che saranno i prossimi, prossimi giorni. L'altra tappa sarà, parlavate di confronto televisivo, sarà mercoledì prossimo, perché il 3 maggio ci sarà l'unico dibattito faccia a faccia tra Macron e Le Pen, e lì magari lì queste differenze emergeranno ancora un po'. Ci ricollegheremo. Grazie Anaïs Ginori di Repubblica. Ciao Anaïs, noi ci lasciamo brevemente, se avete, poi ci riaggiorniamo alle 22.